GR24, il sole 24 ore. Richiamo di Napolitano ai partiti, c'è tanto da fare, dice il capo dello Stato, elezioni in primavera, siate responsabili fino a fine legislatura. Il neogovernatore della Sicilia Crocetta a Radio 24 esclude problemi di governabilità, sarebbe assurdo, dice, pensare che non si trovino persone di buona volontà. Un operaio di 29 anni muore all'Ilva di Taranto ed è sciopero immediato in azienda. Oltre 6 milioni di americani senza luce per la tempesta Sandy. Il presidente Obama dichiara lo stato di catastrofe per New York. Duro il monito del capo dello Stato ai partiti. Ci racconta tutto in diretta Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Piera, la parola chiave è responsabilità. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lancia un monito alle forze politiche destinato proprio, sembra, a Silvio Berlusconi, che ha minacciato nei giorni scorsi di togliere la fiducia al governo. Per Napolitano bisogna arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ma sentiamo il Presidente. Mi si lasci infine osservare che c'è dunque materia assai rilevante per l'impegno del governo e del Parlamento di qui alla scadenza naturale della legislatura. Una scadenza sufficientemente vicina per consentire alle forze politiche di prepararsi a riassumere pienamente il loro ruolo nella vita istituzionale, sottoponendo liberamente al corpo elettorale, sulla base di nuove regole, le loro diversificate analisi e piattaforme programmatiche. E anche il Premier Mario Monti torna sulla minaccia di Berlusconi. Il governo ha fatto cose molto spiacevoli e sgradevoli, tuttavia la percezione del popolo di quello che stiamo facendo dimostra un livello di gradimento più alto rispetto a quello dei partiti politici. Il PDL è sempre più spaccato dopo il voto siciliano. Da una parte Angelino Alfano, che lancia le primarie e si candida a competere per guidare il partito, dall'altra parte Fabrizio Cicchitto, che garantisce la fiducia al disegno di legge sulla corruzione al voto questa sera a Montecitorio, mentre Renato Brunetta attacca il governo che a suo dire discrimina il PDL. Infine il candidato in Sicilia, Nello Musumeci, sconfitto alle regionali, lancia un anatema sul futuro governo PD-UDC nell'isola. Non durerà a lungo. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Abbiamo sentito come il voto siciliano stia agitando il mondo politico romano. Bisogna dare i primi messaggi chiari di rigore e pulizia, così a Radio 24 il neogovernatore della Sicilia Rosario Crocetta, che annuncia come primi provvedimenti la revoca di tutte le consulenze e la soppressione degli enti inutili. Al microfono di Maria Luisa Pezzali, Crocetta respinge inoltre qualsiasi dubbio sulla governabilità della regione. Alla revoca di tutte le consulenze, poi vediamo se qualcuna serve, ma intanto si vanno via. E poi sono enti inutili che bisogna liquidare da 20 anni e stanno ancora lì. In molti pongono l'accento sulla ingovernabilità presunta della regione. Ma quanto mai. Sarebbe assurdo pensare che non si trovano 5-6 persone di buona volontà dentro un'assemblea. Viene anche da esperienze diverse, con giovani anche eletti, che non si debba trovare la governabilità. No, io ho segnali di molti singoli parlamentari che dicono che sosterranno gli atti di governo. Riuscirà a dialogare, pensa, anche con i grillini? Guardi, io sono uomo del dialogo con tutti. Chi non dialoga con me non sarà per colpa mia. Micichè dice siamo pronti a entrare nella maggioranza, lei cosa gli risponde? Che non mi interessano le formulette, mi interessa invece un patto con i galantuomini all'interno dell'assemblea. Sta lavorando sulla giunta, saranno nomi nuovi? Saranno nomi di grande novità. Continueremo a parlare del risultato delle elezioni in Sicilia, anche in Italia in controluce alle 13.30. Parleremo in particolare della svolta antimafia che rappresenta la vittoria di Rosario Crocetta e ascolteremo altri passaggi dell'intervista di Maria Luisa Pezzali. Ma sul voto siciliano e sulle ripercussioni a livello nazionale sentiamo ora il commento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ma il voto siciliano naturalmente presenta dei margini di incertezza e abbiamo visto che il presidente Crocetta ostenta molta sicurezza, però non deve dimostrare ancora che la sua formula è in grado di attirare quei voti che sono comunque indispensabili alla giunta, perché la politica ha le sue regole. Per quanto riguarda il piano nazionale, è chiaro che questo è un voto destabilizzante, è un voto che dovrà essere filtrato da forze politiche che sono tutte più o meno in crisi e che hanno bisogno di ritrovare di qui ai prossimi mesi un rapporto di fiducia con gli elettori. Quello che oggi dice Monti è vero, il governo cosiddetto tecnico, per quanto spiacevole abbia agito in questi mesi affrontando materie spinose, ha ancora un gradimento superiore a quello dei partiti. È il punto cruciale in vista delle elezioni politiche. Grazie, grazie a Stefano Folli. Abbiamo sentito in apertura la voce del presidente Napolitano alla Corte dei Conti. Corte dei Conti, il cui presidente Giampaolino ha usato toni molto forti. Sentiamo. Ogni occasione è buona per ribadire un concetto che alla Corte dei Conti vanno ripetendo da un po'. Al 150° anniversario dell'istituzione della Corte, il presidente Luigi Giampaolino è chiaro. Per ripristinare la correttezza e la trasparenza di fronte alle alterazioni, distorsioni e degenerazioni che hanno infiltrato e devastato molti luoghi della pratica democratica, i giudici mettono e metteranno tutto l'impegno. Tutto questo a forze immutate. Una battuta che Giampaolino non rinuncia a fare di fronte al presidente del Consiglio e al capo dello Stato. Rivendicati i tratti distintivi del lavoro della Corte, tratti che combaciano con l'attività del governo Monti e del Parlamento, norme che aumentano il ruolo dei controlli e della giurisdizione con un fine preciso, quello di razionalizzare la spesa pubblica, funzione tanto più importante in un momento di crisi della politica intesa come attività di servizio. I giudici della Corte non si tirano indietro, assicura Giampaolino, nemmeno di fronte a una mole di lavoro nuova e imponente, visto che sotto la lente della Corte sono finiti molti organismi che fino a ieri potevano dormire sonni tranquilli. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attività sospesa per lutto all'Ilva di Taranto. Un operaio di 29 anni, Claudio Marcella, è morto questa mattina mentre lavorava. Il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, ex operaio Ilva. L'Ilva di Taranto nel passato era oggetto di continui infortuni gravi e mortali. Diciamo che eravamo riusciti ad ottenere dei risultati abbastanza, diciamo, confortanti. L'infortunio di oggi ovviamente ci fa ulteriormente, diciamo, ricadere nel dramma degli anni scorsi. E questo lavoratore sembra che sia stato trovato in mezzo ai binari, a terra, quindi nessuno è in grado di stabilire, almeno al momento, la dinamica precisa dell'incidente. Ci auguriamo che non sia figlio o frutto di una... anche di un'instabilità e di una certezza occupazionale. Uno degli elementi che ci ha visto impegnati nel passato è stato quello che gli infortuni si erano, diciamo, aumentavano in funzione del rapporto, diciamo, di stabilità che avevano i lavoratori, quindi sulla possibilità di programmarsi il loro futuro. Non vorrei che ci sia anche in questa occasione magari una preoccupazione da parte dei lavoratori circa la prospettiva del loro futuro. UBS, prima banca svizzera, ha annunciato il taglio di circa 9.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2015 nell'ambito della ristrutturazione della divisione banca d'affari, in difficoltà ormai croniche. 5,4 miliardi di franchi svizzeri in tre anni, questo è l'obiettivo di risparmio. E trimestrale con il segno più per Eni, la società chiude i primi nove mesi del 2012 con un utile netto di 6,33 miliardi di euro, in aumento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2011. Nel terzo trimestre l'utile è letteralmente schizzato, 2,48 miliardi, oltre il 40% in più rispetto ad un anno fa. E all'indomani dei conti della controllata Chrysler, Fiat si presenta al mercato con buoni dati trimestrali. Sentiamo quali sono dal nostro Andrea Malan. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, Fiat ha annunciato un utile ordinario di quasi 1 miliardo di euro, 951 milioni, in aumento di 100 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima, e un utile netto salito a 286 milioni dai 112 del 2011. In realtà l'andamento è simile a quello dei periodi precedenti, ovvero gli utili sono trainati dal contributo della Chrysler, mentre quello delle attività europee, quindi quella che potremmo chiamare la vecchia Fiat, rimane negativo. Possiamo fare l'esempio dell'area europea, appunto l'EMEA, in cui il passivo del gruppo in quest'area è salito a 238 milioni di euro dai 116 di un anno prima. Il trimestre, questo è l'ultimo dato significativo, ha visto un aumento dei debiti, in parte dovuto a fattori stagionali, debito netto industriale che è salito a 6,7 miliardi di euro, con una liquidità scesa in parte per il rimborso di debiti. Aumento del debito che probabilmente ha contribuito a spingere al ribasso il titolo in borsa fino a un meno 3%. Grazie ad Andrea Malan. E stamattina il rapporto sul risparmio Acri Ipsos, con qualche novità sul comportamento degli italiani. Ci racconta tutto in diretta Deborah Rosciana, a cui chiediamo anche un punto sulle borse europee. Sì, intanto smentisco subito Andrea Malan, perché il titolo Fiat SPA in borsa fa meno 4 e scivola sotto i 4 euro. Però non per essere naturalmente poco carina nei confronti delle collega, solo per dare appunto la giornata di borsa, che per la verità sta rallentando anche il passo. Era tutta positiva in Europa, gli indici guadagnavano oltre un punto, adesso Milano riduce la sua performance più 0,59%, d'altronde c'è sempre lo spread che un po' preoccupa, siamo sui 350 punti base. È andata bene però un'asta del Tesoro italiano organizzata per stamattina, tutti collocati senza problemi, 7 miliardi di euro di BTP a 5 e 10 anni con rendimenti in calo. Per il BTP a 10 anni siamo al 4,92%. Parlavi, Piera, della indagine annuale organizzata tradizionalmente dall'Acri e realizzata con Ipsos in occasione della giornata mondiale del risparmio. Viene tracciato un quadro nero al quinto anno consecutivo di crisi globale. Gli italiani che riescono a risparmiare sono sempre meno. La quota delle famiglie che dichiara di riuscire a risparmiare è crollata al 28% quest'anno, dal 35% dello scorso anno, e si tratta, pensate, del dato peggiore da quando viene realizzato il sondaggio, cioè dal 2001. Le difficoltà si riflettono nella percezione sulla durata della crisi, come nel 2011 l'orizzonte indicato per uscirne è di 3-4 anni. Addirittura per le famiglie italiane il risparmio è diventato un lusso. Gli italiani continuano a puntare su strumenti di liquidità e risparmio postale. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Restiamo in temi di rapporti. In questo caso è il dossier Caritas Migrantes. Hanno superato quota 5 milioni gli immigrati regolarmente presenti in Italia, di cui 1,3 milioni comunitari. La stima, aggiornata alla fine del 2011, è proprio contenuta nel dossier Caritas Migrantes, che da 22 anni fotografa la trasformazione della società italiana. Don Roberto D'Avanzo, direttore Caritas Lombardia, al microfono di Gigi Donelli. 5 milioni di presenze regolari e tutto sommato una dignitosa convivenza, consapevole che appunto non è tutto oro quello che luccica, non ignoro le criticità, le tensioni, nonostante tutto dobbiamo dire che il saldo è positivo, cioè che la presenza degli immigrati in Italia è stata segnata da una capacità di accoglienza, di ospitalità, di rimboccamento di maniche, se così, perché i dati che il dossier ci offre rispetto all'imprenditoria immigrata sono dati molto interessanti, anche dal punto di vista della vitalità, della capacità di questi imprenditori anche di far fronte alla crisi in maniera elastica, eccetera. Gli immigrati sono più giovani di noi, quindi apportano alle casse dell'INPS delle risorse e ne usano poche. Per dire che cosa? Appunto, per dire che tutto sommato in Italia questa presenza non è stata una presenza di conflitto. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, sul tavolo il taglio delle province i cui tempi sembrano allungarsi. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è così, arriverà una nuova carta geografica dell'Italia, una nuova mappa delle province italiane, ma non come inizialmente previsto dal governo dal 30 giugno 2013, bensì dal gennaio 2014. 6 mesi di tempo in più dunque, nessun commissariamento automatico per venire incontro alle richieste degli enti locali. Il Consiglio dei Ministri, convocato per le 16, presenterà un decreto legge per portare il numero delle province dalle attuali 86 a 50, comprese le 10 città metropolitane, tenendo conto di due criteri: un numero minimo di 350.000 abitanti e un'estensione territoriale non superiore ai 2.500 km². Saranno le giunte uscenti a guidare la transizione, ciò significa che al 1 gennaio 2014, dopo i passaggi tecnici necessari, nelle settimane successive andranno al voto tutte le province, anche quelle che non vengono accorpate e anche quelle che sarebbero scadute nel 2015-2016. Lo faranno con il nuovo sistema elettorale di secondo livello, con i consiglieri eletti non direttamente dai cittadini, ma dai consigli comunali della zone. Restano alcuni nodi ancora da sciogliere, il possibile il salvataggio di Sondrio e Belluno, che non hanno i requisiti ma chiedono una deroga perché entrambe di montagna, discussione aperta su Arezzo che in base agli ultimi dati è di poco sotto la soglia minima di residenti. Non è ancora detto però che il provvedimento venga approvato oggi perché potrebbe esserci solo un primo esame con via libera domani in un nuovo Consiglio dei Ministri. E da Roma è tutto. Staremo a vedere dunque come finirà nel pomeriggio. In questa seconda parte di GR24 ripartiamo da quanto sta accadendo negli Stati Uniti colpiti dalla tempesta Sandy, come sapete, e allora ci aggiorna in diretta Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Passato da uragano a tempesta post-tropicale, Sandy si è abbattuta nella notte, come tutti sappiamo, sulla costa orientale degli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una scia di almeno 17 vittime, questo finora il bilancio accertato, una anche in Canada. Il suo passaggio ha messo al buio oltre 6 milioni e mezzo di americani in ben 13 stati e anche nel District of Columbia, dove si trova la capitale federale Washington. A New York la marea portata da Sandy ha raggiunto in alcune zone oltre 4 metri, intere zone di Lower Manhattan, Brooklyn e Staten Island sono sommerse. L'acqua salata si è infiltrata nelle stazioni del metro, alla molti tunnel, per cui la società che la gestisce è costretta ora a rinviare la riapertura delle linee inizialmente prevista per oggi pomeriggio. Allagate anche le piste dell'aeroporto JFK e dell'aeroporto La Guardia. Per il secondo giorno consecutivo resterà chiusa Wall Street, un evento che per cause naturali non si verificava dal 1888. Grave anche la situazione in New Jersey, dove a causa della rottura di una diga tre città sono state devastate dall'inondazione e c'è allerta per un reattore nucleare. Il presidente americano Obama ha dichiarato lo stato di grave calamità naturale per New York, Long Island e New Jersey. Il provvedimento permetterà l'erogazione di fondi federali per coloro che sono stati colpiti dal disastro. Non mi preoccupano le elezioni, ha detto Obama, ma la sicurezza dei cittadini. Infine, ricordo che tra i primi ad esprimere solidarietà al popolo americano per l'accaduto c'è già la Francia, che si è messa a disposizione per fornire tutto l'aiuto necessario. E per il momento è tutto. Grazie ad Adriana Fracchia. Nella notte, per tornare qui in Italia, una nuova scossa di terremoto all'Aquila di magnitudo 3.6. Fortunatamente il sisma non ha causato alcun ferito. Il sindaco Massimo Cialente. Siamo stati destati da questa scossa di 3.6 di magnitudo una decina di chilometri ad ovest della città. Adesso il problema sarà da questa mattina presto cominciare a ricontrollare e riverificare tutta la parte centro storico, che è riaperta ai pedoni che lo possono attraversare a piedi, ma che essendo puntellato con opere professionali va messo sotto controllo. E non c'è tregua neanche per il Pollino, dove la scorsa notte si sono succedute ben 7 scosse di terremoto, lasciando insonne la popolazione già stremata dal sisma di giovedì scorso. Il sindaco di Mormanno, Guglielmo Armentano. Lo stato di paura e di allerta rimane alto, cioè è inutile nascondere. Noi ci stiamo cercando di riavviare tutta la normalità, ma è molto molto dura. Io oggi ho fatto un giro anche nelle scuole, ma come dire, poca presenza, perché c'è la paura. Poi c'è anche il fatto che la gente dorme fuori, quindi la mattina c'è difficoltà proprio a prendere le attività di tutti i giorni. Qui non è stata dichiarata nessuna attenzione da parte di nessuno, da parte del governo, da parte di nessuno, quindi questa è anche un'altra situazione che sicuramente non contribuisce a far sì che la gente rimanga qui tranquilla nel paese. Dal 1 gennaio 2013 per le imprese, le ONG, i ricercatori, gli studenti e le città sarà più facile accedere ai fondi europei. Il nuovo regolamento porterà meno oneri amministrativi, un accesso più facile e tempi più brevi. Parlando di fondi, uno studio della Camera di Commercio belgo-italiana di Bruxelles ha evidenziato come l'Italia sia al primo posto per numero di enti e imprese beneficiari dei fondi europei. Paolo Palamiti, professore di economia internazionale all'Università Bocconi di Milano. Bisognerebbe appunto fare la distinzione tra fondi diretti e fondi indiretti, quindi fondi a diretta gestione della Commissione e fondi gestiti tramite gli enti intermedi, che nel caso italiano sono le regioni. Quindi lo studio, focalizzandosi solo sui fondi diretti, in un certo senso elimina la parte più problematica, che sono i fondi invece indiretti. È solo metà della storia, ecco. Noi abbiamo di fronte dei dati in cui appunto complessivamente l'utilizzo da parte italiano dei fondi comunitari non è assolutamente all'altezza con quello degli altri paesi. Io prendo un po' il dato della Camera di Commercio italo-belga come una specie di modo di mettere in evidenza quel lato positivo del modo italiano di sfruttare i fondi europei che in qualche modo, ecco, appunto, merita di essere sicuramente evidenziato, senza dimenticare però che sicuramente non possiamo considerarci appunto dei principi della finanza a supporto dei nostri progetti che guardano verso l'Europa. E oggi si torna in campo con il campionato di Serie B, ma anche con Palermo-Milan per quello di A. Intanto un sacco di polemiche sugli arbitri. Carlo Genta. Piera, anche troppe di polemiche sugli arbitri. Adesso si gioca subito e forse è un bene. Incrociamo tutti le dita, speriamo che in questo turno infrasettimanale non ne saltino fuori delle altre, anche perché poi sabato c'è una partita ad alto tasso alcolico come Juventus-Inter. Oggi gioca il Milan che apre appunto il programma con l'anticipo, apre il programma della decima giornata. Milan che lascia a casa Boateng, che ripropone Pato al centro dell'attacco insieme all'ormai intoccabile El Shaarawy. Gioca a Palermo sul campo di una squadra in grave difficoltà, terz'ultima in classifica, ma non dimentichiamo che anche il Milan di punti non ne ha tantissimi, 10 contro i 7 del Palermo. Si apre così e speriamo che gli arbitri in questo turno infrasettimanale ci vedano giusto. Che non saremo qua domani alle 13 a dire le stesse cose. Esatto. Grazie al nostro Carlo Genta. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, nel regia Roberto Scaltritti. Vi lascio al GR Spettacoli, poi Italia in controluce sulle elezioni siciliane. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. È stata rinviata a causa dell'arrivo dell'uragano Sandy la serata del Festival di Spoleto dal titolo An Evening at the Spoleto Festival of the Two Worlds, in programma oggi alla Carnegie Hall di New York. L'evento prevedeva la proiezione dell'opera Amelia al ballo per la regia di Giorgio Ferrara e un assolo del flautista Andrea Griminelli. E guerra tra fiction negli ascolti TV. Ieri sera su Rai 1, Terra Ribelle il Nuovo Mondo è stata seguita da 4.164.000 spettatori, pari al 14,85% di share. Ha fatto meglio su Canale 5, Squadra Antimafia 4, che ha totalizzato il 17,94, con poco meno di 5 milioni. 9,4% di share perché Tempo che fa del lunedì. Intanto nell'Access Prime Time Striscia torna a prendere il largo, 22,39% contro il 17,69% di Affari Tuoi. Passiamo al cinema. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. Tra gli eventi a tema per festeggiare Halloween torna al cinema oggi e domani The Rocky Horror Picture Show in versione restaurata. Il Rocky Horror nasce come musical scritto e diretto da Richard O'Brien e debutta a Londra nell'estate 1973. Due anni dopo Jim Sharman ne dirige la trasposizione cinematografica. Il gruppo rock dei Green Day ha cancellato tutte le date del tour americano fino a fine anno e rinviato quelle dell'inizio del prossimo. Il leader Billy Joe Armstrong è ancora in cura per alcolismo. Vorrei un nuovo umanesimo che ci faccia capire perché siamo così violenti. Eugenio Finardi ha ricevuto a Livorno lo scorso 27 ottobre la celebre targa Ciampi alla carriera. Ora lancia il videoclip del nuovo singolo scritto a quattro mani con Max Casacci, Nuovo Umanesimo. Stiamo vivendo un nuovo medioevo in cui pochi ricchissimi controllano con grande asprezza e violenza il resto di tutti noi. È una lotta quasi medioevale, io credo che non possa che portare ad un nuovo rinascimento, a un nuovo umanesimo che sarà anche un rinascimento delle arti, perché questo mondo fatto di finanze è sterile, arido. L'orchestra e il coro sinfonico Giuseppe Verdi di Milano dedicano al genio di Busseto il trittico di inizio novembre per celebrare il bicentenario della nascita del compositore che cade nel 2013. Al microfono di Adriana Fracchia, il maestro Iader Bignamini. Mi ritengo un direttore verdiano perché fa parte un po' della mia colture, io sono padano e quindi le zone verdiane le ho conosciute, le ho respirate. Questo programma intanto è stato pensato per valorizzare il nostro coro, che ha debuttato proprio quando è stato costituito nel 98 e con questi quattro pezzi sacri che furono allora preparati dal maestro Gandolfi col coro e furono diretti dal maestro Chailly. A questi quattro pezzi sacri abbiamo voluto accostare il quartetto per archi, un pezzo che con l'orchestra d'archi forse anche Verdi avrebbe apprezzato molto. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.